CQ canale 23, c'è qualcuno? C'è nessuno sul canale 23? CQ canale 23. Chi è? Avanti. Canta, aiuto. Canta che è bella voce, canta. Ho detto canta, non fischia, lo comprendi? Ciucu ciu. Ma fruscio o froscio lì? Cos'è la cosa? Vaffanculo. Tirare a torre, vorrei dire che mi non bene.